Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento consueto con le notizie dal e dell'Unione Europea. Oggi ripartiamo dall'immigrazione e da un appello. I 28 leader europei mostrino capacità di leadership e raggiungono finalmente un accordo sul diritto d'asilo e quanto chiedono i leader delle tre maggiori famiglie politiche al Parlamento europeo sono Manfred Weber del Partito Popolare, Gianni Pittella per i socialisti e democratici e il liberale Guy Verhofstadt in una lettera inviata ai capi di Stato e di Governo in vista del vertice della Valletta che si apre domani e poi si sviluppa sulla giornata successiva. Si è parlato molto di questo maxi vertice, di fatto ufficialmente è Europa-Africa. Il tema, l'obiettivo è quello di convincere i paesi africani a riprendere i cosiddetti migranti economici in cambio di un pacchetto di aiuti allo sviluppo pari a oltre 3 miliardi e mezzo di euro. L'Europa intanto continua a litigare sulla distribuzione del fardello della migrazione. Il servizio. Alla vigilia del doppio vertice della Valletta, l'Europa si ritrova a fare i conti con i suoi non più giustificabili ritardi in materia di politiche migratorie. I ministri dell'interno comunitari hanno dovuto ascoltare ieri la strigliata del commissario europeo Avramopoulos, che ha chiesto di fare in fretta, rafforzando i controlli esterni, ricollocando i rifugiati e creando i centri d'accoglienza anche sulla rotta balcanica. Le sue parole riflettono la cruda realtà di soli 120 profughi ricollocati finora da Italia e Grecia verso il Nord Europa, ad aggiungere il danno alla beffa all'annuncio di Stoccolma, che intende chiedere di essere inserita tra i paesi da cui i profughi possono essere ricollocati, al pari di Roma e Atene. Dopo la Svezia potrebbe aggiungersi l'Austria in una corsa allo scaricabarile che complicherebbe la già precaria situazione. Il ministro dell'interno Alfano è tornato all'attacco. Nessuna nuova apertura di hotspots per la registrazione di migranti su suolo italiano finché i ricollocamenti non saranno accelerati. Nelle conclusioni ufficiali del vertice, tuttavia, le polemiche si spengono, tutto torna in ordine con i 28 che si impegnano ad accelerare i collocamenti e rendere operativi tutti gli hotspot entro fine mese. Staremo a vedere. Dal canto suo il ministro dell'economia Padoan non sblocca la situazione sulla flessibilità di budget per i migranti, come ammette lui stesso dopo la tappa in commissione. Ci saranno dei tempi diversi, qui la commissione sta ancora decidendo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel presentare il pacchetto annuale sull'allargamento, il commissario responsabile, l'austriaco Johannes Hahn, ha dichiarato che l'attuale crisi dei rifugiati dimostra quanto sia cruciale una stretta cooperazione tra l'UE e i paesi dell'Europa sudorientale. Il processo di allargamento dell'UE, che comprende i Balcani occidentali e la Turchia, è uno strumento potente per rafforzare lo Stato di diritto, ha detto Hahn. E a proposito di Turchia, si è dimostrato preoccupato in particolare sul ritmo delle riforme che ha detto è stato rallentato nel corso dell'ultimo anno. La crescente pressione sui media, ha detto, è causa di seria preoccupazione. E si è parlato anche di Minsk e naturalmente questo significa dei rapporti Russia-Europa sull'Ucraina, di accordi di Minsk e misure anticorruzione. Si è discusso nel corso della visita che il responsabile per la politica estera dell'Unione Europea Federica Mogherini ha fatto appunto a Kiev. Si è parlato anche di misure anticorruzione in vista dell'accordo commerciale di libera circolazione che Kiev chiede a Bruxelles di applicare già nel 2016, mentre l'Unione prende tempo sperando anche di favorire il processo di de-escalation con la Russia. Abbiamo sottolineato la necessità di attuare una riforma anticorruzione cruciale per la credibilità e lo sviluppo di tutte le altre riforme, così Mogherini nel corso della conferenza stampa conclusiva dell'incontro. E con questo è tutto per questo appuntamento sull'Europa. Naturalmente vi ricordiamo che il nostro lavoro continua sul web, ritrovate tutto su radio24.it e stasera nello spazio dedicato. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.